Un saluto a tutte, ebbene sì, viso nuovo orario, stasera ci proviamo. A fare cosa? A parlare con voi da microfoni di Onda Rossa, eccezionalmente in diretta per questa sera. Perché vi ricordiamo che la prossima settimana la trasmissione andrà in replica. Comunque, eccoci qui. E già da ora ci scusiamo per gli inevitabili errori, papere e quanto altro potrà succedere nel corso di questa prima volta. Siamo emozionate, questo è comprensibile. Sometimes I get a good feeling, yeah. Ci deve essere una prima volta. E ad ogni modo, per calmarci, perché penso che sentiate quanto siamo, almeno io in questo momento sono molto nervosa e emozionata, per calmarci e per darci modo di organizzarci, facciamo intanto un momento di sosta e vi facciamo ascoltare un primo brano. Altre trasmissioni abbiamo in maniera non certo esauriente accennato al processo di adeguamento e di omologazione che serpeggia, invoglia, facilita la maggioranza delle realtà lesbo-femministe e di donne nel loro fare politica attualmente, e di contro invece le difficoltà che incontrano nella pratica coloro che questo percorso non vogliono intraprendere. E questo il nodo, secondo me, da sciogliere, risolvere e spezzare. Sono concluse le elezioni provinciali e si andrà a ballottaggio. Io da parte mia ho annullato la scheda. Penserete che sono un po' fuori di testa e sicuramente avete ragione, ma sfido chiunque abbia un po' di sale in zucca a dirmi come si fa a rimanere indenni. Allora, primo macello, primo problema, ad ogni modo riprendo il discorso. E vi dicevo appunto che da parte mia in queste elezioni provinciali ho annullato la scheda. Penserete che sono un po' fuori di testa e sicuramente avete ragione, ma sfido chiunque abbia un po' di sale in zucca a dirmi come si fa a rimanere indenne di fronte a tutto ciò che viviamo e vediamo ogni giorno. Già da molto tempo, per me che sono nel mezzo del cammin, spero infatti di vivere ancora altri 45 anni alla faccia di chi ci vuole togliere la pensione, già da molto tempo, dicevo, mi sembra di vivere nella realtà. non nel sogno di berlusconiana memoria, ma proprio in un incubo in cui mi auguro di svegliarmi presto. So many things wrong, I don't know if I can do right. E la cosa peggiore è che mi sembra il più delle volte che l'incubo sia solo mio e di poche altre. Che sto dicendo? Sono pazza? Eh no, per fortuna la 180 è ancora valida e quindi lasciatemi la possibilità di dare libero sfogo al mio pensiero. Comincerò le mie considerazioni partendo da quello che trasformò il mio già da allora brutto sogno in semi-incubo, l'entrata in campo nella politica, quella con la P maiuscola, dell'imprenditore Berlusconi. Lì per lì, non mi vergogno a dirlo, fu tra quelle che trovarono divertente il fatto. Mi divertì di meno quando lo vidi presidente del Consiglio insieme alla sua squadra. Quando più tardi vinse l'Olivo, la sera stessa del risultato, una mia cara amica che da tempo si è trasferita in Svizzera mi telefonò esultante: la sinistra ha vinto! Ricordo il suo momento di smarrimento di fronte alla mia fredda reazione. Ne riparleremo tra qualche tempo. E quel tempo è passato e abbiamo visto. Ma purtroppo non solo questo abbiamo visto, sarebbe più giusto per me dire ho visto. Ricordo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane, all'interno dello spazio femminista autogestito di Onda Rossa 87 900 e il 47 1950 per le telefonate. Oggi prima trasmissione per noi del coordinamento, interamente in diretta, e continuo, a voi piacendo, le mie lucubrazioni. Con tutto quello che è accaduto in Italia negli ultimi anni, non c'è di certo di stare allegre. Ma per me la fonte più grande di sgomento è il constatare il cambiamento della pratica politica lesbo-femminista e delle donne. Permettetemi un minimo accenno su una modalità che usava ai miei tempi, l'autocoscienza. Sì, lo so, roba vecchia, d'antiquariato moderno, non va più di moda. Molti di noi, infatti, preferiscono la psicanalisi, le religioni esotiche, la scuola di pensiero e quanto altro ancora. Nomino, ma sussurrandolo, il personale politico, che insieme all'autocoscienza era l'altra modalità politica arcaica. Arrivo con un salto agli anni Ottanta e vi dico senza mezzi termini, libertà femminile, pensiero della differenza, autorevolezza e voglia di vincere. Per le lesbiche vi butto là anche un passare da un pensiero minoritario ad un pensiero di minoranza. Dove rintracciare, nella realtà che agiamo e che ci circonda, i pensieri, i desideri, i cambiamenti che volevamo per noi e per le altre? Ragiono con voi ad alta voce. Abbiamo sei donne al governo, siamo allineate ai parametri europei e questo è un bel cambiamento. Abbiamo una commissione pari opportunità e anche questo è un positivo traguardo. Abbiamo le commissioni delle elette, abbiamo le rappresentanze femminili nei partiti e nei sindacati, le donne presto potranno entrare nell'arma dei carabinieri, abbiamo le donne manager e di contro abbiamo le disoccupate, le precarie, le singole, abbiamo le donne violentate, picchiate e uccise, abbiamo le immigrate, abbiamo le lesbiche ancora disperate, abbiamo il sessismo ancora da eliminare, abbiamo il patriarcato ancora che ne dicano, vivo e vegeto, abbiamo da riprendere i fili, il pensiero e la pratica politica. If you dream of me like I dream. Avevo iniziato il corso dei miei pensieri partendo col dire che alle elezioni provinciali ho annullato la scheda. Non che sia per me una novità, ma sono stata tra quelle che quando si dovette decidere di scegliere di dare Roma a Nutelli o a Fini mi lasciai convincere a votare nel ballottaggio. Il mio voto ovviamente l'ho dato alle donne, ma anche per Roma abbiamo visto e vediamo come sta andando e quindi mi sono ravveduta. Mai come in quest'ultimo anno, e non credo sia capitato solo a me, ogni volta che ho manifestato il mio dissenso e le mie critiche, anche nelle minime cose, sono stata additata come rifondarola, irriducibile ed estremista. Gli ultimi due termini posso anche riconoscermeli, ma vi prego, lasciatemi la libertà, conquistata negli anni e dopo tanta fatica, di non voler essere di nessun partito. Watch the rape of the world. Rispetto per le donne che all'interno delle strutture, siano esse di partito, sindacali o di lavoro, lottano per essere protagoniste di un cambiamento. Ma, forse sbaglio, le donne rappresentanti istituzionali dal più alto livello al più basso agiscono senza tener conto del genere. O quando lo fanno, riescono molto bene a rendersi pari agli uomini nella loro modalità. Infatti, allo stesso modo agiscono una pratica clientelare di costruzione di lobby di potere economico-politico. E alla fine il cambiamento è solo che i privilegi, invece che agli uomini, vanno ad alcune donne. E ti sembra poco? Non mi sembra poco, ma lo trovo molto pericoloso, perché non cambia l'ordine delle cose e la maggioranza delle donne che non intendono sottostare a questa doppia trappola maschile e femminile vengono sempre più stritolate negli ingranaggi del potere. E a questo si aggiunge il fenomeno dell'apparire, e noi lesbiche non siamo indenne a questa nuova modalità. Mother of the song, place of our birth, we all a witness to the rape of the world. Accennavo al fenomeno dell'apparire. Dicevo che noi lesbiche non siamo indenne a questa modalità. Infatti l'abbiamo, in qualche modo, secondo me, iniziata nei primi anni 90, quando per incapacità politica o per paura di assumerci la responsabilità di dire la nostra parola sul mondo che cambiava, abbiamo chiuso l'esperienza dei convegni preferendo le rassegne, le kermesse, i festival, le manifestazioni, che sono sicuramente importanti per la visibilità, ma non permettono il confronto e le mediazioni tra le differenti pratiche politiche. Che fare oggi? Bella domanda. Purtroppo non ho la bacchetta magica e non posso operare magie, magari. Certo però che il mio pensiero mi fa sempre più sentire stretta anche nel luogo che da 15 anni ritenevo il mio spazio di riferimento politico. Mi riferisco al centro femminista separatista, e se anche posso capire la scelta degli altri gruppi nel volere praticare una strada diversa, che si pensa porti comunque ad un cambiamento, certo mediato, perché costruito su modalità che fin qui non abbiamo mai agito, non riesco comunque a leggere questa scelta in maniera positiva. Per come si sta evolvendo l'iter della Casa Internazionale della Donna, non penso sia possibile trarne beneficio né per me né per le altre lesbiche. Vorrei sbagliarmi, ma comunque questa è la mia personale opinione. Mi invito a pensarci e, perché no, anche a scrivere. Inviare dei fax con spunti, idee, sensazioni, insomma, con tutto quello che vi passa per la testa. E vi ricordo che per mettervi in contatto con noi, con il coordinamento Lesbiche Romane, il nostro numero di fax è il 68 64 201. What's the rape of the world? Personale, allacciandomi al discorso di Cristina, con una riflessione su come le cose siano cambiate e quanto siano cambiate le donne in questi anni. Donne che sembravano mitiche mi vengono incontro dagli anni del femminismo e del lesbofemminismo, dalle aule ricolme dei tribunali, dalle grandi assemblee, dai convegni, dove tutte insieme, nella diversità di ognuna, sembravano una forza sola. Erano i giorni del personale politico, i giorni in cui ognuna parlava per se stessa e di se stessa, mettendosi in gioco per il bene suo e delle altre, per spezzare la catena dell'orrendo servaggio, quella che si tramanda di madre in figlia, per tornare padrona di sé e del proprio corpo, per prendere la parola sulla propria vita e sul mondo, per assumere uno sguardo vigile e critico sulla realtà circostante e dichiarare finalmente che cosa le piaceva e cosa no. Questa è folla di donne vive, forti, belle e disperate, silenziose, urlanti, compiaciute, travagliate, io non l'ho mai vista. Non ho fatto in tempo, d'altro canto è una mia prerogativa personale quella di arrivare in ritardo su tutte le cose importanti della vita. Ma se ho avuto la sfortuna di non vederle, ho avuto però la fortuna di ascoltarne almeno la voce. È una voce che esce dai documenti, dai libri, dalla voce stessa delle compagne che c'erano e ce lo raccontano, con la gioia dell'esserci state, con il rimpianto del tempo che se n'è andato e anche con l'amarezza dei sogni, e dei progetti che, nati con grandi ali, hanno volato basso quando non sono caduti. Con l'amarezza di quei progetti che si sono scontrati con il muro di gomma di chi stava fuori e anche di chi stava dentro, o che si sono semplicemente scontrati con il disgregarsi delle forze che li avevano resi possibili, almeno in parte o almeno in teoria. Le donne, lesbiche e femministe, in parte insieme, in parte divise, hanno attraversato le nostre vite, dando forma e senso alla nostra storia, rendendoci la nostra dignità, la consapevolezza di essere in grado di opporci a tutto ciò che a noi si opponeva e si oppone, lasciandoci in eredità un potere e un sapere inimmaginabili prima di quegli anni. E proprio qui sta il nodo dolente, lo scarto nevrotico tra quello che è stato e quello che non è più da anni, da quando le donne si sono adagiate su quella parvenza di libertà e di diritto che le ha fatte sentire appagate e pacificate, vincenti e concilianti, che le ha reinserite nell'ottica del piccolo vantaggio uguale grande conquista. Ma non è questa la verità è un'altra, ed è che un piccolo vantaggio è una battaglia persa in partenza, è una mediazione al ribasso, è l'inserirsi in una logica che da sempre abbiamo rifiutato e che sempre avevamo combattuto. Ma si sa, i tempi sono davvero cambiati. Abbiamo attraversato acque tempestose, grandi risse e lunghi addii, ci siamo spaccate, qualcuna se n'è andata, altre si sono ritirate, chi nella quiete della campagna, chi in quella di uno studio per scrivere i suoi saggi. Altre ancora sono rimaste, ma con la sensazione della inutilità, della impossibilità di agire, della mancanza del confronto, dell'annullamento del canale privilegiato attraverso cui passano lo scambio e le idee. Quando sono arrivata al Buon Pastore, avevo un'idea certamente mitica delle donne di quegli anni, delle grandi manifestazioni, dei cortei, delle canzoni, degli slogan e anche delle mitiche panche del Pompeo Magno. Oggi sono con certezza che quelle storiche panche, fuori di metafora, sono molto scomode e che oltre ai tempi le donne sono cambiate. Buon Pastore per me significava il luogo dell'appartenenza, della continuità storica. Mi sembrava l'ultimo bastione di una roccaforte ormai quasi abbandonata, per dirla con le male lingue, l'ultima frangia del femminismo, un laboratorio di cultura e di pensiero, uno sguardo privilegiato sul mondo, in altre parole una stanza tutta per sé. Ma oggi il Buon Pastore è solo un vecchio palazzo, imbrigliato nelle impalcature della ristrutturazione comunale, in attesa di pellegrine giubilanti e di imprese di donne manager, che organizzano, studiano e concertano con le istituzioni quale sia il modo migliore per trasformare un luogo storico e politico in una efficiente struttura economico-finanziaria, in barba alla dicitura no profit, e con l'appoggio di alcuni gruppi storici che hanno deciso che allinearsi all'ordine neoliberista corrente sia la cosa migliore da fare per conservare un luogo che non sarà mai più lo stesso. Entrare o non entrare nel consorzio, entrare o non entrare in innovazione, sono temi che ci hanno tenute occupate per moltissimo tempo, stornando la nostra attenzione da cose che maggiormente potevano corrisponderci da altri progetti. Ma è stata anche l'occasione per comprendere e toccare con mano le problematiche e le diversità che ci separano da certe altre donne e per realizzare come per alcune sia davvero passato il tempo in cui le decisioni venivano prese nelle lunghe assemblee e non discusse nelle sedi legali delle imprese, anche se sono imprese capitanate da donne. E ci è servito a capire ancora di più come certe donne non possano più essere per noi referenti politiche, per forza di cose. Le modalità si sono fatte troppo distanti, gli scopi e gli intenti, che all'apparenza possono sembrare comuni, presuppongono alla base progetti troppo diversi, ognuno legittimo, con buona pace di chi ci crede e di chi lo fa. Per conto mio, la Casa Internazionale della Donna resta una splendida utopia, ma non sarà mai quella che volevamo, se lo volevamo. Troppi consorzi, troppi interessi, troppi lobby, troppi denari e poca politica. E le decisioni ci attraverseranno, e la nostra parola non potrà nulla contro l'interesse generalizzato del potere economico, che sarà il vero motore di questa grande operazione, e contro cui le nostre forze non saranno sufficienti ad ottenere risultati. Non ci sarà una gestione separata per la parte economica e quella politica, da che mondo e mondo, economia e politica sono legate a doppio filo, e le ragioni economiche prevalgono sempre su quelle politiche, e non si vede per quale motivo questo dovrebbe essere un caso diverso. Ovviamente, in conclusione, tutto questo non vuole essere una condanna a morte per questo progetto in cui moltissime donne credono, alcune per reale motivazione, altre per interesse personale, ma più semplicemente una espressione di dissenso e di allontanamento, di estraneazione rispetto a certe politiche e modalità che vogliamo continuare a rifiutare. E scusate se è poco. You were dreaming. abbiamo letto il romanzo giallo Tutto quello che è tuo è mio di Sandra Scoppettone, che l'autrice apre con questa dedica per noi tutte, ovunque, in e out, dichiarate o no. Il libro racconta dell'indagine su di uno stupro condotta dalla protagonista, la detective lesbica Lauren Lorano. È un buon giallo con numerosi spunti e considerazioni sul come si vive da lesbiche, quarantenni, medio borghesi a New York. Ci ha divertito molto l'accostarsi della protagonista al mondo dei computers, il suo timore verso la tecnica e l'informatica, il suo sentirsi inadeguata, ma con la volontà di mettersi alla prova. Molte si sono riconosciute nella descrizione del menage di coppia, nelle relazioni con le famiglie, nelle contraddizioni costanti del voler essere diversa dai modelli dati e cadere nelle trappole della normalità. Tutto quel che tu è mio è il primo romanzo tradotto della Scoppettone. Ci auguriamo di poterne leggere altri prestissimo. Di letteratura thriller, sul numero di Babilonia dello scorso anno, Maria Grazia Di Rienzo ci parla delle detective lesbiche e su come è mutato il ruolo delle lesbiche nei romanzi gialli. Nel presente articolo si tenta di coniugare un genere specifico, quale quello poliziesco, con la presenza in esso di personaggi lesbiche e di autrici lesbiche. In questo caso l'obiezione di solito diventa: ma che me ne frega, cosa mi importa? Che significato ha avere una detective lesbica in un racconto? In fondo il thriller o il giallo non parlano come la vera letteratura della vita reale che io vivo come lesbica. Perché no, mi domando? Perché il genere costringe la lettrice a confrontarsi con un codice dato. Forse che la vera letteratura è priva di meccanismi riconoscibili? Pensate solo al tema della sfiga, condito da profondissime riflessioni su arte, morte, natura, spirito, Dio e Marx. Quest'ultimo, se l'epoca lo consente, che attraverso i riconosciuti maestri della nostra letteratura, pensate a certi polpettoni di Manzoni o Verga e, se volete, persino agli strazi di Susanna Tamaro. In nome di quale superiore giudizio dovremmo privarci del piacere di avere ovunque in letteratura rappresentazioni della soggettività lesbica, la quale si insediò nel genere giallo fin dall'inizio, senza attendere il nostro permesso e viziata da un'ottica etero. Tema comune nella narrativa del mistero di inizio secolo è infatti il plot, che vede la corruzione di una giovane donna da parte di una donna più anziana, scaltra e malvagia. Negli anni 20 la vecchia lesbica cattiva con l'occhialino diventa nei romanzi ancora più cattiva. Dirige la tratta delle bianche, gestisce la prostituzione minorile e, se non viene uccisa dall'investigatore di turno, provvede automaticamente a togliersi di mezzo mediante suicidio. Da tale modello si discostano significativamente fra le più grandi scrittrici di gialli di tutti i tempi, Dorothy Sayers e Agatha Christie. Una delle protagoniste di Trappola per topi, della Christie ad esempio, è immediatamente riconoscibile come lesbica e, per quanto sospettata di omicidio, come accade attorno a tutti i personaggi del racconto, non è l'assassina né una delle vittime. Nei romanzi della Sayers, invece, una presenza lesbica costante esegue l'evoluzione che si compie nella vita dell'autrice stessa. Una personaggio cattivissima, il classico Vilma al femminile, è Mary Whittaker, in uno dei primi romanzi di Dorothy Sayers, Morte in naturale, del 1927. Mary commette un omicidio per ottenere un'eredità e seduce la più giovane Vera affinché ella le fornisca un alibi. Veramente per procurarglielo, e quando sembra essere sul punto di confessare la verità, Mary la uccide. L'assassina tenta di sedurre anche l'investigatore Lord Peter Wimsey, ma non ci riesce, nel mentre lo abbraccia e bacia, a nascondere una repulsione naturale che lui sente. È la carne della donna lesbica che si rivolta in un contatto sensuale con il maschio. Se questo fornisce un indizio all'investigatore, è però la sua assistente, Miss Clemson, a leggere chiaramente il rapporto fra Mary e Vera come lesbico. E sebbene lo condanni con orrore, Miss Clemson resta ai nostri occhi un po' sospetta. Vive come dama di compagnia di una nobile signora e non è sposata. È importante notare il modo in cui Dorothy Sayers presenta il lesbismo della sua eroina negativa. Essa è un dato fra i tanti che tormentano il carattere di Mary, ma l'essere lesbica non è causa diretta del suo essere omicida. Successivamente, complice la lettura del Pozzo della Solitudine, che uscì nel 1928, e l'amicizia di Dorothy con una coppia lesbica, le personaggi lesbiche, soprattutto in coppia, assunsero connotazioni positive. Il succitato investigatore Lord Wimsey ricorre ad una di queste coppie per la risoluzione di un caso. Le due donne sono descritte come disponibili, generose e amichevoli, ed anche se l'investigatore non può esimersi da un commento sull'aspetto mascolino di una delle due, questa è l'unica riprovazione che si permette. Il giudizio complessivo di Lord Wimsey sulla coppia lesbica è totalmente favorevole. Un ulteriore romanzo dalla Sayers, God in Ice, 1935, è ambientato in un collegio femminile in cui troviamo una coppia di studentesse lesbiche, forse un po' fanciullesche, ma dichiaratamente felici. È interessante notare come l'esplicitazione del lesbismo avvenisse in quel periodo unicamente nei romanzi gialli. La letteratura prodotta contemporaneamente da Virginia Woolf, Vita Sacra in West e Violet Trefusis velava le relazioni lesbiche in essa descritte, sostituendo un uomo ad una delle due donne, oppure facendo mutare di genere il personaggio. È per esempio il caso di Orlando della Woolf. Una comune donna lesbica, pur affrontando il rischio di vedersi rappresentata come assassina, ricattatrice, ladra o vittima, poteva riconoscere se stessa solo negli intrecci dei polizieschi. Anni 40, i concetti cardine del genere erano ormai codificati e pronti ad essere parodiati dal comico. Apparvero infatti i romanzi di Nancy Spain, il cui lesbismo era conosciuto almeno nella cerchia dei suoi numerosi collaboratori. Ciò non le impedì di diventare molto popolare. Conduttrice di programmi radiofonici e televisivi, autrice di libri per bambini e di un ricettario, fondatrice assieme alla sua compagna Jen Werner Lauri della rivista femminile She, giornalista per il Daily Express, Nancy Spain fu anche autrice di 10 libri gialli che avevano per protagonista principale l'investigatrice Miriam Birsey. Costei è costantemente alle prese con temi lesbici, scuole femminili, relazioni fra donne, campionati femminili di tennis e così via. Per godere appieno l'umorismo di cui sono intrisi i gialli della Spain bisogna essere omosessuali. Ella mette in scena le macchiette del mondo gay dell'epoca che, ad occhio eterosessuale, possono apparire alquanto improbabili. I testi pullulano di ex danzatrici di balletto maritate ex gangster, regine di teatro, fuoriusciti russi, bande di strangolatori tung, in una parola puro camp. Durante gli anni 50 e 60 molti racconti polizieschi contenevano allusioni sull'omosessualità femminile, tornando però a proporre il vecchio stereotipo della predatrice lesbica immersa in uno squallido mondo di vergogna. Alcune autrici ammisero palesemente che inserivano tali tematiche nei loro libri sperando sul successo derivato da uno scandalo. Altri autori speravano di suscitare l'interesse voyeuristico e morboso dei lettori maschi. Fu solo nel decennio successivo, grazie all'influsso del femminismo, che ricominciarono ad apparire personaggi lesbiche in luce positiva. Una lodevole eccezione fu il romanzo di Patricia Highsmith, The Price of Salt, uscito nel 1952, che vendette all'epoca quasi 1 milione di copie. È stato tradotto in italiano con il titolo Carol. La storia d'amore fra Carol e Therese, in esso narrata, non contiene condanne né tormenti né l'obbligatorio suicidio delle protagoniste, la cui relazione è una lenta conquista. Il sale della vita ha un prezzo. Questo la Highsmith non lo nega, ma il suo messaggio finale è che una relazione lesbica non ha nulla di innaturale e che la felicità fra due donne insieme è possibile. Gli ultimi vent'anni, hanno visto una vera e propria esplosione del genere negli Stati Uniti. Le scrittrici di gialli Nikki Baker, Rose Beauchamp, Kate Calloway, Lauren Wright Douglas, Sarah Dreher, Claire Manneb, Sandra Scoppettone e molte altre hanno tutte per protagonista dei loro romanzi una detective lesbica. La soggettività lesbica è oggi definitivamente un motore positivo nel contesto dell'intreccio giallo e queste donne detective hanno dei tratti comuni molto interessanti. È per esempio notevole che la donna deviante per eccellenza, la lesbica, sia colei che deve indagare la devianza del delitto, risolverne l'apparente mistero e riequilibrare quell'armonia che il delitto ha spezzato. Eroina positiva, quindi una giusta, dalla parte della legge, ma di solito pronta a mitigare con la comprensibile, con la comprensione, la rigidità della legge stessa, umanissima e sensibile, priva del ricorso gratuito alla violenza, di cui invece si serve usualmente la maggioranza dei detective di sesso maschile. Un'altra diffusa caratteristica concerne la focalizzazione da parte delle investigatrici lesbiche sui motivi che portano al delitto. Esse sono molto più interessate al perché esso avvenga che al come. Il genere poliziesco si presta benissimo all'indagine e alla denuncia sociale. Non a caso l'investigatrice omosessuale è portata ad indagare le dinamiche con le quali la società che difende crea da sé i propri mostri. In più essa svolge la professione di detective privata o di poliziotta o di procuratrice legale, mestieri ancora oggi un po' insoliti per una donna, mostrando una forte determinazione nell'andare oltre i ruoli prefissati dal contesto socioculturale, ma trasmettendo nel contempo la convinzione che una donna lesbica, da sovvertitrice a mostruosa corruttrice del destino, possa essere la nemesi stessa del delitto, la garante di un ordine sociale di cui sente di far parte a pieno titolo. Qualcuno potrebbe giudicarlo un depotenziamento della capacità del lesbismo di ripensare il mondo o un appiattimento sulla conservazione dell'esistente, ma oggi come oggi, a fronte di tante pseudodevianze, cyber transgender, modaiole, che non spostano nulla nella percezione collettiva della condizione lesbica, trovo terribilmente trasgressive le descrizioni di queste vite normali, colme di senso, coscienti di sé. I will. su queste note vi salutiamo per il momento, perché poi rimarremo ancora un quarto d'ora in diretta con voi. E niente, ci scusiamo ancora, noi ci siamo però comunque divertite, spero che anche voi vi siate divertite, e per il momento un saluto a tutte, ciao, a martedì, e vi ricordo che la trasmissione appunto andrà in replica martedì 8 dicembre, sempre alle 9 e sempre su Radio Onda Rossa 87 900. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.